aumento della qualità dei dati. Ogni giorno viene diffuso il numero dei tamponi e il numero dei positivi. Ma com'è possibile che i positivi siano riferiti ai tamponi del giorno, se normalmente il risultato del test arriva con molti giorni di ritardo? A quando sono riferiti questi numeri di positivi? Vedo nel territorio, in quel poco territorio che riesco a girare, anche per lavoro fortunatamente, che la gente è disperata. Chi ha un bar, chi ha un ristorante, chi ha un'attività legata alla ristorazione appunto, è disperata. È già in ginocchio, era già in ginocchio a settembre, ottobre. Buongiorno Simone, sono di Brescia. Sarei curiosa di sapere come va la vaccinazione anti-influenzale nel resto d'Italia. Se è come da noi, siamo messi male. Oh, su questo adesso ci arriviamo magari, quantomeno con un'occhiata alla prima pagina della Repubblica che vi si dedica. Credo non benissimo comunque. Sul fronte dei dati, il primo ascoltatore ci parlava dei tamponi, quando arrivano. Allora, magari alcuni arrivano, i risultati arrivano dopo 3 giorni, in altri casi arrivano dopo 4, dopo 5, dopo 6, però quando il flusso è così costante, presumibilmente i numeri su questo fronte quantomeno sono piuttosto affidabili. Come sapete, noi di base, almeno io da queste parti, tendo ad evitare di dare il numero di contagiati, perché è un numero che serve e non serve, perché quello che dobbiamo misurare è la pressione sugli ospedali, il rischio di crisi sanitaria, molto più che il numero dei contagi, al quale ovviamente il rischio di crisi sanitaria è collegato, però quel che conta davvero e i dati veri li abbiamo da là, quelli anche confermati, quelli della pressione sul sistema sanitario. Sul fronte della gente disperata, lo so, ci sono categorie che sono in enorme difficoltà, e a questo si aggiunge, mi si consenta di dire, e vi pregherei di non sottovalutarlo, quello che è l'aspetto psicologico, perché stiamo ritornando in un tunnel dal quale pensavamo di essere usciti, tutti quanti, e oggettivamente il peso di questa situazione lo sentiamo tutti. Se a questo si aggiunge la preoccupazione economica, questo è. Speriamo che i decreti ristori, che adesso dice il Sole 24 Ore dovrebbe arrivare un terzo, su questo fronte funzionino e possano aiutare. 349-238-6666 come sempre per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 11 novembre e sono le 7:23 minuti e 48 secondi. Le 7:24, va, arrotondiamo. Le prime pagine dei quotidiani sono dedicate in gran parte, ovviamente, i titoli di apertura alle questioni che hanno a che fare con il Covid. Il governo chiede più chiusure, dice il Corriere della Sera. Mezza Italia è arancione, il titolo di Avvenire. Striscia il lockdown, ora tocca pure a Emilia Romagna e Veneto, è il titolo della Verità. Corsia d'emergenza, il titolo del Manifesto. La Stampa intervista il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lavoro per evitare il lockdown, dice. Natale in famiglia ma senza pranzi affollati. Io non ho capito cos'è questa fissa per rassicurarci sul fatto che potremo fare il Natale in famiglia. Troppa gente in giro, si chiude di più, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Ecco le balle degli sgovernatori, è quello del Fatto Quotidiano. Si parla ovviamente delle regioni, di una serie di regioni alle quali il Fatto Quotidiano sta facendo un po' di guerra in questo periodo. Il vaccino c'è, Conte no, titola il giornale. Il tema, ci arriveremo, è il piano per distribuire questo vaccino, che non c'è. Influenza, rischi ospedali, mancano 15 milioni di vaccini, titola La Repubblica. Le dosi sono in ritardo. E Ricciardi che dice: la febbre stagionale e il virus possono far collassare i pronto soccorso. Tra l'altro Mi ricordo che a questo tema del vaccino antinfluenzale Radio 24 ha dedicato un reportage, lo trovate sul nostro sito, tra i nostri podcast, e le stime che avevamo fatto noi, con tutto il rispetto per i colleghi di Repubblica, per carità, erano molto simili a queste. Si parlava di circa 15 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale che mancano. Assembramento di Bamba è il titolo di Libero. Così, perché è ripartito il contagio? Si è scambiata l'estate come una medicina, invece è una stagione. Abbiamo dormito e ora siamo indifesi come a marzo. Continua il balletto sulle regioni. In cinque cambiano subito colore. Il Sole 24 Ore, no, andiamo prima al Messaggero, e così restiamo sul tema Covid. Dovete chiudere le piazze, il governo richiama i sindaci. Abbiamo sentito poco fa il sottosegretario all'interno Achille Variati. Il Sole 24 Ore invece apre sulla pubblica amministrazione che paga in ritardo. E qual è il problema? La cosa rischia di avere un impatto molto pesante sui bilanci delle banche, le banche alle quali sono stati ceduti i crediti della pubblica amministrazione. Poi si parla anche di Covid, con le quattro regioni in bilico e la Campania che per ora resta gialla. Avremo tempo di fare un passaggio anche sulla Gazzetta dello Sport in questa rassegna stampa, perché guardate che questa vicenda dei tamponi e delle partenze per le nazionali sta diventando un caos completo. La vicenda dei tamponi della Lazio da una parte, la vicenda appunto delle partenze dall'altra. La vicenda della Lazio? Perché c'erano tre giocatori che erano risultati negativi. Poi sono state rifatte le analisi da altri due laboratori rispetto a quello di Avellino, che era stato scelto da Lotito, e sono risultati positivi. La procura di Avellino ha acquisito i campioni, ha fatto rifare le analisi e a questo punto ne risultano due negativi e uno positivo. È il delirio più completo. E poi ci sono appunto le partenze per le nazionali. Ma come al solito, iniziamo da qualcosa di diverso, e anche oggi voglio iniziare dalla giustizia. Tra l'altro vi ricordo che di giustizia parleremo oggi alle 8.35, lo faremo con Kuno Tarfusser. Ve ne abbiamo parlato ieri della sua vicenda in sede di rassegna stampa, dell'incredibile indagine che lo ha riguardato. Lui è un magistrato, giudice della Corte Penale Internazionale per 10 anni, ex procuratore capo di Bolzano, indagato per peculato per aver fatto un chilometro per andare da una piazza di Bolzano a una pizzeria insieme ad un suo amico carabiniere. Questa è la storia. 11.000 pagine di inchiesta per appurare che poi questo era. Parleremo con lui e poi ci occuperemo della giustizia in tempi di Covid, del rischio di nuovo blocco, di nuovo e ulteriore blocco. Anzi, siete nel settore, siete avvocati, magistrati, anche cancellieri amministrativi del settore. Scriveteci, oppure se siete stati coinvolti da questi blocchi, da questi rinvii, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio e le vostre voci. Iniziamo dalla giustizia, dunque, con una storia che arriva sempre dalla Corte d'Appello di Torino. C'è stato evidentemente un buco di qualche anno in questa Corte d'Appello, che ha fatto una serie di errori piuttosto gravi, dei quali uno ce lo riporta bene il Messaggero, che richiamo in prima pagina e poi va a pagina 12 la storia è questa. Condannato in appello, ma la sentenza era di un altro. È così, che dobbiamo fare? Non c'era alcun dubbio, la condanna era giusta. Le motivazioni però erano di un altro imputato. 4 mesi di carcere per resistenza a pubblico ufficiale, ma un po' di tempo dopo, quando i giudici hanno consegnato il documento dove spiegavano il perché e il per come avevano deciso di dichiarare la sua colpevolezza, è arrivata la sorpresa. L'incartamento riguardava un'altra persona, un'altra vicenda, un altro reato. È stato un pasticcio quello combinato in chissà quale ufficio della Corte d'Appello di Torino nel 2019, su cui ha dovuto mettere mano la Cassazione. Ora il signor F, sardo trapiantato nell'Alessandrino, potrebbe farla franca. La sentenza è stata annullata e ci sarà un nuovo passaggio davanti ai giudici subalpini, che probabilmente si rivelerà inutile, dato che lo stesso procuratore generale ha fatto presente che ormai il reato è prescritto. Ci sono altri casi che vengono citati dal Messaggero, uno per esempio dalla Corte d'Appello di Venezia. Il 6 luglio scorso un avvocato aveva ricevuto via PEC le motivazioni di una sentenza relativa a un processo che il legale avrebbe dovuto discutere lo stesso giorno. Motivazione che tra l'altro era il copia e incolla di un altro verdetto dei magistrati del 2016. Sempre alla Corte d'Appello del capoluogo piemontese. Nel 2018 venne cassato un provvedimento che aveva negato a un pusher la riduzione della pena dopo aver scoperto che era scritto su un modello prestampato. Il 2019 è stato anche l'anno, lo ricordiamo, nel quale un giovane commesso, Stefano Leo, lo ricorderete, fu ucciso sul lungo Po da uno sconosciuto, che dopo l'arresto dichiarò di averlo scelto a caso come vittima sacrificale. L'uomo era stato condannato mesi prima per maltrattamenti in famiglia, ma non era andato in carcere perché la corte non aveva trasmesso le carte all'autorità competente. Che dobbiamo fare? Si erano dimenticati. È così. Ancora la giustizia. Andiamo sul Libero. È vero che è passata un po' sotto traccia questa storia, perché poi quando l'indagine ha colpito Roberto Maroni, le pagine dei quotidiani si sono riempite di intercettazioni, anche con ipotesi di relazioni private, relazioni personali, ecco la testimonianza che Roberto Maroni ha favorito una sua collaboratrice per un incarico. Ebbene, siamo dovuti arrivare alla Cassazione, ma dopo 6 anni Roberto Maroni, l'ex presidente della Regione Lombardia, è stato, ed ex leader della Lega, è stato assolto. Così Renato Farina sul Libero picchia giù duro e parla di 6 anni rubati, 6 anni di vita a Roberto Maroni, il fatto del quale è accusato di aver fatto il suo mestiere di governatore, ha segnalato come adatta ad un lavoro una sua ex collaboratrice di quando era ministro. Ha chiesto ai suoi dirigenti in regione di farsi da parte attiva inviando il curriculum all'ente che doveva assegnare l'incarico, da 30.000 euro annui, 6 anni di processi e vite distrutte. Maroni è addolorato più per gli altri che per se stesso. Pensa al trattamento subito a seguito di un'indagine finita in nulla da un eccellente manager di Leonardo come Giuseppe Orsi. Fu arrestato 2 settimane prima delle elezioni per corruzione in quanto ritenuto amico di Maroni. Assolti tutti e due. E poi tutti gli altri, tutti gli assolti in questa vicenda. Giova sottolineare come la cosa sia stata oggettivamente poco trattata anche dagli stessi giornali che all'epoca picchiarono molto duro sullo stesso Maroni. Una pausa. I mezzi di informazione, la gente negli Stati Uniti non sta progressivamente prendendo le distanze da Donald Trump perché lo stanno boicottando, perché c'è un grande disegno, no? Ma perché Donald Trump con questo atteggiamento non sta attaccando Joe Biden, non sta mettendo in difficoltà Joe Biden, sta mettendo in difficoltà la credibilità degli Stati Uniti d'America, la più grande democrazia del mondo, e a questo agli americani non va giù. Anche in provincia di Vercelli di vaccini anti-influenzali non se ne trovano. Non riescono a vaccinare neanche i soggetti a rischio, i medici. Figuriamoci di trovarli in farmacia. Non si trovano, ma dove sono finiti? E questo è, c'è un problema sui vaccini anti-influenzali. Però, allora, visto che l'ascoltatore ci ha portato sul tema degli Stati Uniti, ovviamente trovate molte pagine sui quotidiani che in parte sono un po' invecchiate, come è naturale che sia, perché poi le notizie arrivano nella notte. Ancora in queste ore Donald Trump ha detto un'altra volta che i risultati sono truccati e che Joe Biden non ha vinto. Però c'è tutta una coda italiana, una in parte, se vogliamo, spiritosa, quasi sarcastica, in parte un po' meno, che secondo me è interessante, potrebbe essere da esplorare. La parte più ironica, più sarcastica, la peschiamo dalla Verità e dalla Stampa con Mattia Feltri e il suo buongiorno. Allora, la Verità prende in giro proprio, parte dalla prima pagina, poi prosegue con Maurizio Belpietro a pagina 15, prende in giro Walter Veltroni, il piano politico di Veltroni, ammucchiata su Biden. Perché? Perché Veltroni ha detto che è il modello giusto, un riformismo coraggioso che può aprire una stagione feconda anche per il centro-sinistra italiano, e ci ricorda Belpietro che sono almeno 20 anni che Veltroni e compagni sognano di trovare una terza via. Da quando il comunismo è crollato e il muro di Berlino ha travolto le loro carriere politiche, gli ex PC sperano di incontrare sulla loro strada qualcuno che riempia il grande vuoto lasciato dalla fine dell'Unione Sovietica. E fa un lungo elenco che, se volete, troviamo anche nel pezzo di Mattia Feltri sulla Stampa. In effetti doveva succedere, finalmente è successo. In una bellissima intervista concessa alla Repubblica, Walter Veltroni ha sottolineato che la vittoria di Joe Biden deve essere un modello per la sinistra italiana. Aveva usato le stesse identiche parole quando fu eletto Barack Obama, un modello per la sinistra italiana. Quando in Brasile fu eletto Lula, un autorevole dirigente dei DS, Cesare Salvi, lo definì un fatto di straordinaria portata per la sinistra italiana. Quando in Spagna fu eletto José Zapatero, un altro autorevole dirigente dei DS, Fabio Mussi, lo ritenne un punto di svolta per la sinistra italiana. Quando in Francia fu eletto François Hollande, il sempre simpatico Pierluigi Bersani individuò l'apertura di una fase nuova per la sinistra italiana. Quando negli Stati Uniti fu eletto Bill Clinton, molto sobriamente il sommo Massimo D'Alema si limitò a dichiararlo un ponte per la sinistra italiana. Quando in Gran Bretagna fu eletto Tony Blair, il bravo Piero Fassino vi scorse un esempio per la sinistra italiana. E stessa cosa per Tsipras, con Gianni Cooperlon che invita a cogliere l'opportunità per riaprire il cantiere della sinistra italiana. Persino quando in Venezuela fu eletto Hugo Chavez, ci fu chi riuscì a vedere a portata di mano la grande occasione per la sinistra italiana e fu l'impareggiabile Fausto Bertinotti. Purtroppo non ricordo più chi intravide anche nell'elezione di Bill de Blasio a sindaco di New York un'imperdibile chance per la sinistra italiana. Poi, non so come, non so quando, sono finiti a Di Maio. Così scrive Mattia Feltri sulla Stampa. Un po' più seriamente c'è la questione della Lega e del suo rapporto con gli Stati Uniti. Ricordatevi sempre, chiunque sia il presidente, questo è un paese con il quale bisogna avere buoni rapporti. E Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, pagina 9, ci porta con il suo Politica 2.0 sulla doppia linea su Biden a destra e nella Lega, facendo notare innanzitutto che la linea espressa da Salvini, che ancora ieri sera diceva congratularmi con Biden attendo il risultato delle elezioni, confligge in parte con due autorevoli esponenti della Lega e invece è in linea, nota Lina Palmerini, sulla scia del presidente russo, Vladimir Putin, confermando l'assenza di novità nei suoi schieramenti internazionali. Pure se il responsabile esteri della Lega è Giorgetti, che ha subito dichiarato quanto sia necessario dialogare con gli Stati Uniti di Biden se si vuole governare in Italia, Salvini va per conto suo. Ma se si gira indietro non trova neppure Zaia, che in un'intervista rilasciata ieri dice di non condividere la narrazione per la quale a Washington è arrivato un comunista. Probabilmente lui, come Giorgetti, tengono a mente quello che gli diceva Bossi. Ossia che mai bisogna farsi nemici gli americani. E poi c'è lo strappo più forte, quello di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia non è mai stato un fan di Trump e ha subito riconosciuto la sua sconfitta imputandola all'arroganza. Dunque un oceano lo divide dai giudizi del capo leghista. E non è irrilevante solo per le dinamiche del centrodestra, ma per il punto che tocca a Giorgetti. Davvero si potrà governare l'Italia senza la spalla degli Stati Uniti o dell'Europa? A maggior ragione dopo la pandemia che lascia in eredità la necessità assoluta di alleanze internazionali forti, finanziarie ed economiche. Con Bruxelles è tutta da costruire la partita del Recovery Fund, ma poi ci sarà da negoziare la durata della sospensione del patto di stabilità e infine, ma più importante, c'è bisogno della mano tesa della Banca Centrale Europea che sta sostenendo un debito pubblico cresciuto in modo consistente per effetto del virus. Quindi questo è, ci fa notare Lina Palmerini, che Salvini su questo fronte ha non un problema, però mettiamola così, un forte spunto di riflessione. Il traffico. Stiamo tornando in un tunnel solamente perché il governo ha voluto tornare in un tunnel e anche le amministrazioni locali, comunali, regionali hanno voluto tornare nel tunnel perché avevano promesso e detto tutt'altro, ok? Se io avessero fatto qualcosa un po' prima, invece di dare incentivi per biciclette, soprattutto ora che arriva l'inverno, chi si compra una bicicletta d'inverno o un monopattino? Vabbè, non la metterei così giù così dura. Sono mancate molte cose, sono mancati degli elementi di pianificazione sia da parte del governo che da parte delle regioni, siamo perfettamente d'accordo su questo. Imputare tutto al bonus biciclette mi sembra un po' forte, in tutta sincerità, o meglio, insomma, farne un elemento centrale di tutto questo. Il problema è che è mancato presumibilmente una certa capacità organizzativa. Io non vedo niente di... Tra le cose che sono cambiate, che forse non c'è più lo stesso spirito che c'era al momento del lockdown. Uno spirito di solidarietà che abbiamo visto in azione da parte delle varie parti d'Italia nei confronti delle zone più colpite, e che a leggere questo racconto allucinante, francamente, di Guido Tiberga sulla Stampa pagina 8, pare questo spirito essere completamente sparito. In Piemonte è il titolo: scoppia la guerra degli ospedali. Dopo Tortona si ribellano Verduno e Casale, che dicono: non mandateci i malati di Torino, dove curiamo i nostri. Non nel mio ospedale. La storia, che potremmo intitolare così, comincia con una fotografia. Una lunga fila di ambulanze ritratte nel buio di Torino. Era la notte del 3 novembre. Quelle ambulanze, nonostante le ipotesi più fantasiose urlate dai negazionisti, andavano tutte verso Tortona, nell'Alessandrino, una delle città più colpite dalla prima ondata del Covid. A Tortona, 27.000 abitanti, c'è uno dei Covid hospital del Piemonte. Lì da quella notte sono arrivati da Torino 120 malati positivi. La storia continua con un'altra fila di ambulanze, quella che ieri da Torino si è incolonnata verso Verduno, nel cuore delle Langhe, dove è stato inaugurato di recente un altro ospedale. Massimo Veglio, direttore dell'ASL locale, e siamo in questa zona, siamo all'ospedale del territorio, non ci hanno neppure detto quanti pazienti arriveranno, ma sarà comunque un numero spropositato. Qui sta saltando tutto, già così non riusciamo a gestire i malati ordinari. Federico Chiodi, sindaco di Tortona, prima ha chiesto che una quota di posti letto venga riservata ai suoi concittadini, poi ha stilato la lista delle compensazioni che si aspetta dalla regione, dalla riapertura dei reparti di cardiologia e rianimazione all'attivazione di un day hospital pediatrico. Il nostro sacrificio, dice, non può essere a costo zero. Chiodi, che è della Lega, trova spalla nell'ex sindaco, che è del Partito Democratico, battuto da Chiodi. Anche a me dicevano sempre che la regione non può fare diversamente, ma se deve calare la mannaia, allora meglio agli altri che a me. Queste le parole che arrivano da Tortona, e sotto due interviste, con Carlo Picco, il commissario all'ASL della città di Torino, che dice: inconcepibile, ora è il momento di fare squadra, nella fase 1 abbiamo accolto tutti da queste parti. Il presidente della Fondazione Nuovo Ospedale di Alba Ebrà, dall'altra parte, che dice: non diventeremo il lazzaretto dell'intera regione. Come andiamo avanti in questo modo? E il rischio molto concreto è quello che viene paventato da Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano a pagina 6. È il super casino del tutti contro tutti. Certo, Padellaro ci parla della parte un po' più strettamente politica, dello scontro tra le regioni e il governo, della tensione tra i comuni e le regioni, di tutta questa discussione istituzionale, dei virologi che si scontrano coi virologi. E però il senso del pezzo mi sembra chiaro, lo spirito con il quale affrontammo la prima fase non è evidentemente lo stesso. Su Covid ovviamente trovate moltissimo: le regioni che passeranno in zona arancione, le perplessità su quello che succederà alla Campania, la stretta in arrivo da parte del governo sulle passeggiate, tra virgolette, insomma, sugli assembramenti. Ne abbiamo parlato poco fa, se volete riascoltare poi il podcast alle 6.30 abbiamo avuto l'ospite del sottosegretario all'interno Achille Variate, che ci dà un po' di chiarimenti su questo fronte. E per restare sui temi Covid, fatemi dare un'occhiata al campionato. Va. Campionato che è, o meglio, convocazioni per le nazionali che sono nel delirio più completo. Perché? Perché ci racconta la Gazzetta dello Sport a pagina 7 con Valerio Piccioni che è stato violato il no delle ASL e la Fiorentina ha rotto la cosiddetta bolla mandando 5 in nazionale. sono Milenkovic, Vlahovic, Quarta, Amrabat e Caceres, che partirà però solo stamattina. Gli è stato dato l'ok, hanno deciso di lasciare l'Italia senza attenersi alla prescrizione dell'autorità sanitaria locale di rimanere in bolla. Un caso simile a quello accaduto in casa juventina subito dopo la sfida mancata con il Napoli, e sul quale sia la Procura federale sia quella della Repubblica di Torino hanno aperto un fascicolo. In qualche modo la storia si ripete. La Fiorentina ha compreso la decisione dei giocatori visti gli impegni ravvicinati delle nazionali, ma ha segnalato alla Procura federale il caso della rottura della bolla. Peraltro il club viola si è trovato fra due fuochi, perché un eventuale no al viaggio in nazionale avrebbe comportato un divieto di impiego per la prossima partita di campionato, come da regolamento UEFA. Quindi società strette, e questo campionato, che devo dire la verità, si fa a questo punto sempre più difficile. Se considerate anche il caso della Lazio, oggi ci torna Valerio Piccioni sempre a pagina 8 della Gazzetta dello Sport, e qua ripeto, veramente un delirio. Ieri 8 ore di esami su prelievi, analisi, modalità di raccolta, perché la Lazio ha utilizzato questo laboratorio di Avellino sul quale in questo momento si indaga. E che cosa succede? Succede che i tre tamponi fatti con all'Eiva Immobile Stracoscia per il laboratorio di Avellino erano risultati negativi. Per i successivi due laboratori erano risultati positivi, sempre lo stesso campione, e invece per le controanalisi fatte alla Procura di Avellino uno è risultato positivo, Stracoscia. L'Eiva e Immobile sono risultati negativi. Come si fa ad andare avanti in questo modo? È difficile da capire. Sa benissimo come andare avanti la RAI, eh? Ci pare. Qualche pezzo lo trovate sparso sui giornali. Il più feroce è quello di Giorgio Gandola, pagina 6 della Verità. La RAI bulimica, altri 18 vice direttori sono stati nominati. 18, torna alla mente 18 Isola Bella, scrive Gandola, torna alla mente quell'antico liquore italiano, un amaro, ma in RAI festeggiano in tanti. Qualche giorno dopo la notizia dei 200 milioni di buco nel bilancio arriva quella dell'ufficializzazione dei 18 vice direttori, una squadra di rugby con anche gli allenatori distribuiti nelle tre reti. GR24, ci risentiamo dopo con Paolo Mieli, e poi parliamo di giustizia.